Buonasera a tutti. Come va? Saluta la persona alla tua destra. Alla tua sinistra. Passo tu solo, stai. Non sai a chi devi salutare. Alla tua persona, la persona che è seduta avanti a te. Dietro di te, ciao mi. Bene. Allora, siamo andati tutti in bagno già? No, perché durante il messaggio, per favore, non voglio vedere nessuno che si alza, allacciamoci le cinture, quindi fate, allacciamo la cintura, raga, nessuno si allaccia la cintura, che qua girano vigili urbani e carabinieri, ve lo dico, eh? Stiamo tutti segnalati, allacciatevi la cintura perché stiamo per partire. Il titolo del messaggio di stasera è: lo desidero, ma come lo ottengo? È un tema che mi ha scosso e ha scosso tanti ragazzi che venerdì sera c'erano al live, perché abbiamo parlato proprio di questo, dei desideri. Quando desideri qualcosa fortemente, lo vuoi e dici ok, ma come faccio? Come farò ad ottenerlo? Stasera vogliamo capire insieme proprio come arrivare a raggiungere i nostri desideri. Ero piccolo, avevo circa 10 anni, quando alla scuola elementare, mia moglie sa tutto, mi innamorai della prima ragazzina della mia vita. Mi presi la mia prima cottarella e niente, io sognavo, no, questa scena in cui noi uscivamo insieme dalla scuola, mano nella mano, e camminavamo nel viale della scuola. Immaginavo questa scena speciale, insomma. Io non, in realtà a 10 anni tu non hai idea di che cosa è un rapporto di coppia, il fidanzamento, tutte queste cose qua io non le sapevo, ma io desideravo che doveva darmi la mano, proprio desideravo che dovevamo essere fidanzatini. Il punto è che lei non sapeva neanche come mi chiamassi, quindi lì ho vissuto la mia prima delusione d'amore, il mio primo desiderio inatteso, il mio primo desiderio crollato, frantumato davanti ai miei occhi. Però è una storia simpatica, ma questa mi ha insegnato ad affrontare in futuro tante altre difficoltà. Ad esempio, a 15-16 anni, un altro desiderio che avevo fortemente era: volevo il motorino, mi ero fissato, volevo il mio cinquantino, perché dovevo avere la mia indipendenza, dovevo essere autonomo, oramai ero uomo, potevo andare dove volevo, nessuno mi doveva controllare, dovevo raggiungere l'estremità della terra col mio cinquantino. Già mi vedevo in Austria, Svizzera, Germania, a esplorare l'Europa col mio cinquantino, e non l'ho avuto. Il mio secondo desiderio, grande desiderio, infranto. Poi 18-19 anni, secondo voi qual è il desiderio? La macchina. E qua proprio mi sono scatenato, proprio la macchina la dovevo avere. E la ragazzina no, e il motorino no, ma la macchina la dovevo avere. Sapete cosa ho fatto? Una sera, in preda alla disperazione, tornai a casa e andai al computer. E non so se mio padre si ricorda, non so se ti ricordi, pa, feci una presentazione PowerPoint. Non so se hai ricordo di questa immagine, feci una presentazione PowerPoint dove scrissi tutti i buoni motivi perché dovevo avere una macchina. Perché se mio padre andava a lavoro con la macchina sua e qualcuno si sentiva male, chi lo doveva portare in ospedale? Chi? Serviva la macchina. Perché? Perché dovevo andare a scuola con la macchina, risparmiavo sull'abbonamento, avrei diviso la benzina con gli amici. Cioè, tutte motivazioni valide. In più aggiunsi a questa mia presentazione PowerPoint anche una serie di autovetture da me selezionate che avevo trovato su internet, degli affari, cioè erano affari. E insomma, e poi aggiunsi una serie di cose tipo che avrei aiutato economicamente nell'acquisto di questa macchina senza lavorare, però avevo contribuito con la paghetta di 5-10 euro, insomma, quello che era, ma avevo bisogno della macchina. Pensate che ero così fissato che una notte sognai di avere la macchina. Io andavo in giro. E sapete quando vi svegliate e siete convinti che quello che avete sognato è vero? Io dopo 10 minuti realizzai che non era vero. E lì piansi, lo ammetto. scoppiai in un pianto. Fatto sta che poi non ebbi proprio la macchina per me, però la iniziai a condividere con mia madre, quindi almeno lì diciamo che un po' il mio desiderio fu avverato. Insomma, voglio parlarci di quei desideri, di come raggiungere i nostri desideri, i nostri obiettivi, tutto quello che desideriamo, perché tante volte quando noi desideriamo qualcosa così fortemente, come diceva il pastore prima, quel desiderio, quella cosa che vogliamo diventa il nostro focus, prende tutta la nostra attenzione, prende tutta la nostra vita, ogni centimetro del nostro corpo, ogni secondo dei nostri pensieri è impegnato a pensare come posso fare per raggiungere quel desiderio. E ci sono una serie di desideri che ciascuno di noi ha. Possono essere un bel lavoro, una bella macchina, una bella casa, una moglie buona, buona che sappia stare con me, che sia buona per me, un marito buono, che sia un buon padre. Che altro? Possiamo desiderare, non lo so, una bella vacanza. Sicuramente possiamo desiderare tutte queste cose, però noi che veniamo in chiesa queste cose non le desideriamo. Assolutamente. Io desidero che la chiesa avanzi. È vero, noi non le desideriamo queste cose. No, anche noi le desideriamo. Noi possiamo avere dei desideri che siano anche in questo senso, però non possiamo condannare chi desidera queste cose, perché magari in chiesa possono esserci altri desideri che possono ingannarci, come ad esempio voler assolutamente guidare un momento di lode e adorazione dal palco. Può essere un desiderio che martella la tua mente. O ad esempio un altro desiderio può essere: io voglio assolutamente vedere quella persona venire in chiesa, proprio desidero quella persona, non gli altri, proprio quella. Diventa il nostro desiderio martellante e questo ci impedisce di vedere tutte le altre opportunità che invece Dio sta aprendo davanti a te. Quando tu ti focalizzi solo su una cosa, su un desiderio, su una sfaccettatura, ti stai perdendo tutto il resto. E poi magari iniziano le prime difficoltà, perché riprendendo l'ultimo esempio, magari proprio quella persona non può venire in chiesa, proprio non può. E quindi iniziano, no, i mostri. Questa persona non può venire, perché magari lavora la domenica, non può venire in chiesa. No, quel lavoro non è da parte di Dio. Quel lavoro è il mostro da battere. Quella cosa specifica è il mio mostro. Inizi a vedere una difficoltà, queste cose che ti sembrano essere più grandi di te, che ti stanno per schiacciare. Sembrano esempi banali. Però io sono convinto che se noi ci fermassimo 30 secondi a riflettere sui nostri desideri, su quello che tu stai desiderando, sono sicuro che insieme al tuo desiderio troverai una paura, un mostro che sta impedendo a quel desiderio di avverarsi. Pensiamoci 30 secondi. Nel frattempo io faccio uno stacchetto. Faceva ridere. Pure mi sono impegnato. Sai, se vivi questo, se stai vivendo questo, quindi se i tuoi desideri iniziano ad essere, no, un po' offuscati dalle tue paure, una è la domanda che ti devi fare. La domanda che ti devi fare è: Dio, cosa ne pensa del mio sogno? Bang! Dio, cosa ne pensa del mio desiderio? Dio, cosa sta pensando del tuo desiderio? Glielo hai chiesto. Dio, ma tu di questo desiderio che io sì, lo sto inseguendo da anni, anni, anni, anni, ma tu cosa ne pensi? Cioè, fammi capire un po', a che punto stiamo di questo percorso? Tu sei d'accordo con me? C'è una persona nella Bibbia che voglio prendere come esempio, perché proprio lui aveva un desiderio nel cuore e voglio insieme capire come ha fatto questa persona, questo grandissimo re, ad arrivare al raggiungimento del suo sogno. Lo raggiungerà? Boh, vediamo insieme. Si chiama Ezechia. Ezechia, quanti di noi conoscono Ezechia? È un personaggio della Bibbia. Chiaramente, non è che possiamo prendere il personaggio. È un personaggio della Bibbia. La sua storia è raccontata in Due Re. Ed è un personaggio, uno dei più grandi re del regno di Giuda. Per presentarlo, non spenderò troppe parole, ma possiamo leggere questo versetto, che è in Due Re, capitolo 18. Aspetta che me lo trovo. Versetto 5-8. Dice così: egli, questo è Ezechia, La sua presentazione dice che egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Ripetiamo insieme. Si capite Ezechia? No, ripetiamo. Perché non ripetiamo? Cioè, si capite Ezechia? Cioè, Ezechia è da ammirare. Si capite Ezechia? Cioè è incredibile, un uomo che non ve ne fu nessuno simile a lui tra quelli che regnarono in Giuda. Cioè, osservò i comandamenti del Signore, si tenne unito al Signore, riusciva in tutte le sue imprese. Io la prima cosa che ho detto è, si capite Ezechia? Personaggione, eh? Però, breve parentesi, Ezechia, voi dovete sapere che la storia di Ezechia è una storia di riscatto. Cosa vuol dire? Che Ezechia era il figlio di Acaz. Acaz era il re di Giuda prima di lui e sapete cosa ha fatto quest'uomo? Era un po' fuori di capoccia e lui non ha seguito i comandamenti di Dio, tanto che a un certo punto della sua vita il padre di Ezechia ha iniziato a servire un dio straniero che si chiamava Sevavremimi, famosissimo. Praticamente il culto di questo dio, lo sapete cosa l'ha portato a fare? Lui offriva olocausti, quindi sacrifici di fronte a un altare. Questi sacrifici erano i suoi figli. Quindi lui, Acaz, il padre di Ezechia, ha bruciato i suoi figli per servire un Dio che non esiste. I fratelli di questo re sono morti. La famiglia di questo re non era una buona famiglia. Eppure lui è riuscito a riscattare la sua storia. Quindi se stai vivendo, se vivi situazioni difficili, vieni da una famiglia difficile, vivi a casa momenti difficili, sappi che tu puoi riscattarla la tua vita. Niente è stato scritto che non possa essere cambiato. La tua vita ti sta aspettando, Dio sta aspettando i miracoli che tu, attraverso di te, puoi compiere. Quindi questo era Ezechia. Ezechia è stato ha riscattato la sua vita, l'ha capovolta ed è fantastico. Io credo che qui in questa stanza ci sia qualcuno che ha bisogno di riscatto nella propria vita, quindi non aspettare. Non aspettare oltre, non aspettare che passino ancora anni per cambiare la tua vita, non aspettare che le cose peggiorino, non aspettare di rimanere ancora più solo di quello che sei, non aspettare che il tuo matrimonio finisca prima di rendertene conto, non aspettare che i tuoi figli crescano prima di cambiare, non aspettare che il tuo lavoro ti renda schiavo prima di capire, non aspettare, la tua vita vale di più, Se ci è riuscito Ezechia, ci puoi riuscire tu. Ci puoi riuscire. È vero. Ci credete? A me non mi parassa però, eh. Voglio dire, cioè la tua vita può cambiare. Se non va bene qualcosa, può cambiare. Credici, dillo alla persona accanto a te, la tua vita può cambiare. Con una pacca, che è sempre più incoraggiante. Ora però vogliamo capire anche come può cambiare una vita, no? Ok, Ezechia ha cambiato la sua vita, ma cosa ha fatto Ezechia per cambiare la sua vita? È scritto in questo verso, sono 4 semplici punti. Ezechia mise la sua fiducia nel Signore. Ezechia si tenne unito al Signore, seguì il Signore e osservò i suoi comandamenti. 4 punti, 4 cose che se fatte quotidianamente, ogni giorno, ogni istante, di fronte ad ogni situazione, io sono sicuro riscatteranno la tua vita. Io ho bisogno di riscatto perché io non mi accontento. Io non mi accontento di quello che sto vedendo. Io non mi accontento di quello che sono oggi. Io voglio continuare ad avanzare col Signore. Io voglio continuare a crescere con Dio. E questi 4 punti sono alla base, prego e spero, ogni giorno della mia vita. Io ci punto, io ci credo. E spero che questi quattro punti possano essere alla base della nostra vita. Perché quando tu credi questo, la tua vita cambia. E se non ci credi, provalo a fare. Provaci. E voglio chiedere a tutti i capigruppo di alzarsi in piedi. Sì, sì, veloce, veloce, veloce, senza indugi, anche i moderatori, alzatevi. Se sei una persona in questa sala, non voglio che alzi la mano, non voglio che fai niente, se hai una difficoltà, se hai un problema, se vuoi parlare con qualcuno, anche nell'anonimato, senza creare nessun caso, nulla, vai da una di queste persone. Vai da una di queste persone e parlagli del tuo problema, perché io sono sicuro che si stanno impegnando nel vivere questo. Cercale, parlaci, scambiati il numero, chiedili informazioni, chiedili consigli, perché insieme noi possiamo riscattare la nostra vita. Ci credi? Facciamo un applauso anche a tutti i capigruppo, i moderatori. Grazie. Potete accomodarvi. Moderatori, scusate, sono di parte. Ok, cosa succede? Ritorniamo al nostro desiderio, no? Ezechia, quindi, era un re, no? Ezechia è il re. Secondo voi, qual è il re? Qual è il desiderio che un re può avere nel suo cuore? Secondo voi, io da re, cosa posso desiderare per il mio regno? Che prosperi, un erede, che il popolo mi accolga, mi ascolti, che possa conquistare nuovi territori, no? Più o meno, io penso che un re possa desiderare questo. Io credo che Ezechia desiderasse queste cose. Da re desiderava che il suo regno potesse crescere, espandersi, conquistare di più, ancora di più. E dato che Ezechia era unito al Signore, stava con Dio, seguiva i suoi comandamenti, secondo voi cosa è successo? Ha prosperato. Ha prosperato. Per quanti ha prosperato? Senza timidezza. Per quanti non ha prosperato? Proiettiamo il verso così ci togliamo il dubbio. In 2 Re 18, verso 13. Dice questo: il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, marciò contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Così, in un rigo, tutto quello che abbiamo letto prima, quindi che lui dovesse prosperare, era unito al Signore, dice, scusi signor, ma che è successo qua? Cioè, fammi capire. La nonna pugliese direbbe, e che peccato ha fatto questo? Vero? La nonna pugliese direbbe, è questo che peccato ha fatto. Il suo regno, lui che aveva dedicato la sua vita a Dio, si era unito a Dio, il suo regno viene completamente conquistato da questo qui, da Sennacherib, che era il re d'Assiria, no? Quindi immaginate voi lo stato di Ezechia. Dice, scusami signore, ma stavamo così bene, tutti e due qua, uniti. Io venivo alla chiesa, pregavo. I desideri miei, ma e che fine hanno fatto? Tutto così, sfumato. Questo succede anche a noi. Quante volte i tuoi desideri finiscono contro il re d'Assiria? Quante volte i tuoi desideri si sono sfrantumati nel nulla? Sono evaporati, sono andati via, perché c'è stato qualcuno, qualcosa, che te li ha tolti di mano un sacco di volte. A me è successo un sacco di volte. Prima ve ne ho raccontate tre, ma potrei andare avanti e sono sicuro che succederà altrettante volte. Ma com'è possibile tutto questo? Com'è possibile? E proprio quando succede questo, proprio quando i tuoi desideri iniziano a venire meno, no? Iniziano ad uscire le difficoltà, inizia ad essere sotto assedio, sai cosa fai? Sai cosa facciamo? Cosa io faccio? Tante volte me ne vado nel panico. E sapete cosa faccio? Anziché rispondere, mi sottometto. E questo è quello che Ezechia ha fatto. Perché Ezechia non solo è stato conquistato, gli hanno conquistato il regno e quant'altro, ma sapete cosa ha fatto? Per placare l'ira di questo re d'Assiria, ha smantellato la casa del Signore. Cioè è andato nella casa del Signore, ha preso l'oro e l'argento e lo ha donato a questo re. L'ha donato al re d'Assiria, si è tolto, ha tolto cose, ha depredato la casa del Signore per dare cose a un re che non adorava il Signore, che era politeista, che adorava dei stranieri ovunque. Ezechia aveva paura. Ezechia aveva paura. E tante volte quando tu hai un desiderio inizi a vedere gli impedimenti davanti a te. Io, tu, noi abbiamo paura. E quello che facciamo, anziché affrontare quella difficoltà, iniziamo a indietreggiare, a cercare di salvare il salvabile. E quindi iniziamo ad avere un atteggiamento dove, ok, sta andando male questa cosa, non mi interessa, io devo salvare questo. Io devo salvare questo. Ok, sta andando male il mio matrimonio. Io devo cercare di salvarlo in qualche modo. Cosa posso fare? Vado lì, vado dallo psicoterapeuta, faccio gli appuntamenti, quelli con le altre coppie, magari mi possono aiutare. Mio figlio ha un handicap, ok? Cerco di andare da dei medici, inizio a cercare di salvare il salvabile, vero? Scoprono una malattia un tuo parente, cosa fai? Subito, corri. Il giorno dopo cerchi il primo specialista, spendi tutto quello che hai pur di cercare di salvare il salvabile. È vero, lo fai, io lo faccio, io ci cado in questa cosa, cerco di salvare quello che posso salvare. Ezechia ha fatto questo, rinnegando e volgendo le spalle al Signore. Andando avanti nella storia scopriamo che quello che succede è simpatico, perché a un certo punto, mentre sei completamente nel panico e l'ansia ti ha pervaso, l'ansia ha pervaso anche Ezechia, che è nel panico oramai, cosa succede? La bugia, quel nemico che ti sta attaccando, anziché indietreggiare e accontentarsi della tua sottomissione, rincara la dose. Quando sei nella battaglia e inizia a schiacciarti quella battaglia, più tu indietreggi e più vieni schiacciato. E viene fuori questo Rabsaché. Rabsaché chi è? È il capo dell'esercito del re di Assiria. Quindi voi immaginate il popolo di Giuda è sulle mura della città, è sotto assedio, è stato assediato e si vede marciare contro un plotone, no? Questo lo possiamo togliere. Si vede marciare contro un plotone che li marcia un esercito molto più grande di quello che il regno di Giuda avesse. Arriva questo Rabsaché, si mette lì. E poteva comunicare con i capi in una lingua. Però per farsi capire da tutto il popolo inizia a parlare un'altra lingua, perché voleva spaventare tutti, voleva fare paura. E le bugie, le difficoltà, le situazioni scomode, tante volte ci fanno paura e ci impediscono di capire quelli che sono i nostri desideri. Si oppongono ai nostri desideri, smettiamo di guardare al desiderio e iniziamo a guardare alla paura. E se prima era il desiderio il nostro idolo, diventa la nostra paura il nostro idolo. E iniziamo a vedere in quella paura tutto quello che c'è da combattere. Arriva Rabsaché, si mette là e inizia a dire: guardate che voi state seguendo un Dio sbagliato, perché io vi consiglio di non seguire Ezechia, ma voi sapete che se continuerete a seguire Ezechia finirete col bere la vostra urina, vivrete una carestia pazzesca, perché il Dio che sta seguendo Ezechia non è un Dio buono. Il vero Dio ha mandato me a liberarvi, quindi arrendetevi adesso. Il popolo di Giuda in realtà si è spaventato, sapete perché? Perché c'è una profezia che è stata data tanti anni prima, che diceva proprio che il re d'Assiria sarebbe stato come un fiume straripante che avrebbe conquistato Giuda. Quindi il popolo di Giuda credeva in quella bugia e si stava spaventando ancora di più di fronte a quella bugia. Se la stava facendo sotto. Se la stava facendo sotto. E inizia a dire: abbandonatelo, abbandona, seguite me, seguite me. E più andava avanti, più diventava aggressivo. Più diventava aggressivo, perché le bugie sono così. Ti iniziano a ronzare in testa delle menzogne, no? Delle cose che non sono vere, iniziano a prenderla meglio sui tuoi pensieri e ti schiacciano, ti mettono paura, vieni schiacciato da tutto questo. Però sapete cosa succede? Succede una cosa super, che Ezechia proprio nel momento più difficile, proprio nel momento in cui tutto stava per crollare, fare un colpo che secondo me è un colpo di genio. L'obiettivo del re d'Assiria, sapete qual era? Non era quello di combattere, perché il re d'Assiria non si era accontentato. Abbiamo letto che Ezechia si era già sottomesso, no? Gli aveva già dato tutto il suo oro, tutto il suo argento. Già Ezechia era sottomesso. Quindi il re d'Assiria poteva conquistare tranquillamente la città di Gerusalemme nella quale si trovava il re. Però sapete cosa voleva il re d'Assiria? Il re d'Assiria non voleva combattere, voleva una completa resa di Ezechia. Voleva che Ezechia si arrendesse completamente e che loro marciassero in quella città per dichiarare proprio che tu non vali niente. Io ti schiaccio. Questo voleva dichiarare con questo gesto. Ma Ezechia, sapete cosa fa? Dice al suo popolo, dà un consiglio al suo popolo, gli dice: ok, quando lui vi parlerà, voi dovete fare solo una cosa. Non rispondete. Non rispondete. E questo è un consiglio che sto dando a qualcuno in particolare che è in questa sala. Non so chi sei, ma sento che hai bisogno di questo. Stai vivendo una situazione difficile. Stai vivendo una situazione complicata. Stai vivendo una situazione forse economicamente complicata. E le bugie ti iniziano a ronzare attorno. Non troverai un altro lavoro, perderai quello che hai, ti toglieranno questo, ti toglieranno quello. Sapete cosa ha fatto Ezechia, facendo stare in silenzio il suo popolo? Non ha dato spazio all'impulsività. Quando ti trovi in una situazione difficile, devi stare attento a non lasciare spazio all'impulsività, perché quando reagisci d'impulso, vuoi fare l'eroe, tante volte finisci morto e finisci ferito. Ezechia è stato saggio perché non ha lasciato spazio all'impulsività. Bisogna fare le scelte giuste, avere il giusto atteggiamento quando ti trovi in queste situazioni. Ed Ezechia lo ha fatto. Ha risposto al re d'Assiria con le scelte giuste e col giusto atteggiamento. Sapete perché? Perché dopo aver detto al suo popolo di stare in silenzio, facendo quindi la prima cosa giusta, in 1 Re 19, 1-2, c'è scritto quello che fece successivamente. Dice, lo leggo velocemente, quando il re Ezechia ebbe udito quello che il Rabsacchè stava dicendo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, entrò nella casa del Signore e mandò Eliakim, sovrintendente del palazzo, Sebna, il suo segretario, e i sacerdoti più anziani, coperti di sacco, dal profeta Isaia. Fece due cose che sono fondamentali. Quando ti trovi nelle difficoltà, quando ti trovi in una situazione di paura, ti stai spaventando perché quella situazione sta gridando alla tua vita, non scordarti di andare da Dio. Non scordarti di andare da Dio e soprattutto circondati di persone attorno a te che siano forti col Signore. Ezechia ha mandato i suoi discepoli, i suoi servi, quelli che lo stavano servendo, da Isaia, che era uno di quelli che si sapeva che aveva un rapporto con Dio. Isaia è uno dei più grandi profeti della Bibbia. Ezechia lo sapeva e ha mandato i suoi a dire: andate da Isaia, andate da Isaia, perché so che Isaia avrà cose buone da dirci. E quello che fa poi è andare nella casa del Signore e pregare e chiedere: Dio, aiutami, Signore, ma qua che sta succedendo? Voi immaginate però che non è stato semplice per Ezechia. Dopo che ha depredato la casa del Signore, ci entra. Cioè, dopo che ha tolto tutto, è come se noi un giorno veniamo qua, pastor, mi serve questa cassa, io mo me la porto, me ne vado e poi non la porto più. Non la porto più la cassa. È facile, secondo voi, tornare in chiesa? Che cosa le devo dire al pastore? Non è facile, perché sai che sei mancante in qualcosa, perché sai che non hai la coscienza a posto. Ma tornare alla casa del Signore è la cosa più importante che tu puoi fare. E l'altra cosa importante è circondarti di persone che sanno stare con Dio, perché possono darti consigli buoni. Quello che succede dopo questo, sapete cos'è? È che il popolo di Ezechia non ha mai combattuto, non è sceso in battaglia. Però il Signore risponde a Ezechia e gli dice: stai tranquillo, perché quel Rabsacchè che è stato lì a gridarti contro tutte quelle cose ha offeso me. Non ha offeso te, ha offeso me. Quindi lui se ne andrà. E morirà. Questa è la promessa che Dio ha fatto a Ezechia. E sapete cosa è successo? Che Rabsache indietreggia, torna nel suo paese. Perché? Perché un altro re stava invadendo la Siria. Perché il Signore, quando ha un piano e vuole centrare un piano, tu magari stai vedendo solo la tua sfaccettatura, ma tutte le altre sfaccettature non le puoi vedere. Il Signore sta muovendo cose per benedire la tua vita che tu non stai vedendo. E tu non le puoi vedere perché tu non hai il controllo su ogni cosa. Ti devi fidare, ci dobbiamo fidare. Ezechia si è fidato di Dio e Dio lo ha benedetto. Ezechia ha cercato Dio e Dio lo ha benedetto. Dio vuole benedire la tua vita. Non ci sono difficoltà troppo grandi, non ci sono cose insormontabili. Il Signore può muovere re, regni, cose, ovunque, per benedire la tua vita e per salvarti. Un applauso al Signore, non a me, al Signore. Perché Lui lo fa, eh? E questo è per Lui. Non è per me, ma è per Lui. Perché Dio conosce ogni difficoltà. Dio lo sa. Anche se tu sei qui e mi stai guardando e il tuo volto è impassibile e non lasci trapelare nessuna emozione, io so che ciascuno di noi ha un desiderio e sta vivendo delle difficoltà per arrivare a quel desiderio. Ma Dio lo sa. Dio si muove. E sapete cosa succede di curioso poi in questa storia? Che proprio mentre Rabsache se ne va, allora Ezechia può dire: ah, qualcosa sta funzionando, eh? Ho capito come funziona. Non è così. Perché il re d'Assiria cosa fa? Gli manda una lettera. Gli manda una lettera di minaccia. E gli dice: tu non hai capito niente. Guarda che io entrerò nel tuo regno e lo conquisterò. E tu verrai completamente annullato e annientato. E tutto quello che tu hai sarà mio. Questo lo voglio leggere. Perché mi ha colpito. Sapete cosa ha fatto poi Ezechia? Ezechia in 2 Re 19, versetto 14. Dopo che il re d'Assiria era diventato così aggressivo contro di lui, dopo che non aveva niente, perché attorno a lui niente era cambiato, a parte il fatto che Rabsache non c'era più, tutto era rimasto uguale, il suo regno continuava ad essere sotto assedio, lui stava sempre nella stessa condizione, non era cambiato niente, aveva un re che voleva schiacciarlo. Sapete cosa fa? Ezechia prese la lettera nelle mani, dalle mani dei messaggeri, e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Intimità. Quanto intimo sei con Dio? Quanto ti arrabbi con Dio? Quanto chiarisci con Dio? Quanto cerchi Dio? Quanto lo stai mettendo al centro dei tuoi desideri? Quanto stai desiderando che Dio riscatti la tua vita? Quanto gli stai chiedendo aiuto? Con quanta convinzione glielo stai dicendo? Come glielo stai chiedendo? Ezechia era intimo con Dio. Ezechia era intimo con Dio. E sapete la sua preghiera quale fu? Il versetto dopo dice questo. 2 Re 19, 15, 19 dice: Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore. I re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo. Legno e pietra li hanno distrutti, ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci, te ne supplico dalla mano del Signore, affinché tutti i regni della terra riconoscano che tu solo, Signore, sei Dio. Tu solo, Signore, sei Dio. Sapete perché Ezechia ha subito questo? Perché fino a un certo punto della sua vita Ezechia aveva il suo regno, aveva il suo esercito, aveva il suo popolo, aveva le sue cose, aveva i suoi desideri, aveva il suo, aveva il suo. Ma con questa preghiera Ezechia, sapete cosa sta dicendo? Signore, non è per me, non è mio, non è il mio desiderio, non è quello che io desidero, ma è quello che tu desideri per me, è quello che tu vuoi realizzare attraverso di me, che io ti prego di vedere, è quello che tu vuoi. Ezechia in questo momento arrende tutto, la sua identità di re viene messa da parte, riscopre l'identità di figlio di Dio, e questo è quello che io desidero che noi stasera possiamo riscoprire. Perché se i tuoi desideri in questo momento sono ostacolati dalle difficoltà, dai mostri, chiedi a Dio, Dio cosa ne pensi del mio desiderio? Dio saprà risponderti, Dio saprà dirti se quel desiderio è per Lui o è per te. E ti do una brutta notizia, perché se tu stai sperando qualcosa per te, solo per te, per far crescere te, per migliorare te, senza riconoscere che Lui è quello che ti sta migliorando, che Lui è quello che ti sta dando, mi dispiace, ma tu finirai invaso. Ma se tu riconosci che quello che tu stai sperando è per Lui, è per il Suo nome, per la Sua gloria, per innalzare Lui, qualcosa sarà diverso, qualcosa cambierà. Ci possiamo alzare in piedi? Perché voglio concludere leggendo quella che è stata la risposta del Signore alla preghiera di Ezechia. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia. Non la assalirà con gli scudi, non alzerà trincee contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento gli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e se ne tornò a Ninive, dove rimase. Mentre egli stava adorando nella casa del suo Dio Nisroch, i suoi figli lo uccisero. Lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Questo è quello che è successo. Ditemi voi, ma secondo voi Ezechia cosa poteva desiderare di più? Il suo popolo è libero, l'esercito che lo assediava è andato via, il re che lo voleva morto è stato ucciso, ed Ezechia non ha mosso una freccia. Ezechia non ha mosso una freccia. Quale poteva essere il desiderio di Ezechia, di cui abbiamo parlato all'inizio? Far crescere il suo regno, un popolo che lo ascoltasse, più territorio. Ma questo lui non poteva desiderare di più di questo. È libero, ha liberato il suo popolo, Dio lo ha liberato attraverso di lui e soprattutto ha conquistato quell'intimità con Dio. Questa è la verità. Se hai un desiderio nel cuore, io ti prego, mettilo davanti a Dio. Non avere paura se hai difficoltà. Non avere paura. Chiedi Dio, ma di questo mio desiderio tu cosa ne pensi? Perché Dio, sono convinto che ti darà molto di più se tu ti legherai molto di più a Lui. Il mio desiderio è quello di vedere questa Chiesa crescere. Il mio desiderio è quello di vedere la Chiesa italiana crescere. Questo è il mio desiderio. Questo è il mio più grande desiderio. Da solo non lo posso fare, ma se insieme lo speriamo in Dio, di gloria in gloria cresceremo. Non per avere più numeri, non ci interessano i numeri, ma perché l'Italia, il mondo ha bisogno di speranza, e l'unica speranza è Gesù. Io voglio chiedere a tutti quanti noi di chiudere i nostri occhi. voglio vivere due momenti di preghiera. Il primo è senza timidezza, senza troppi indugi, voglio chiederti, mentre abbiamo tutti gli occhi chiusi, voglio chiederti se nella tua vita hai un desiderio che è stato infranto, se nella tua vita hai vissuto una delusione grande, se nella tua vita qualcosa ti è stato tolto, come è successo ad Ezechia. Se hai vissuto quel sentimento di paura, io ti chiedo di alzare la mano perché voglio pregare per te. Grazie. Grazie. Grazie. Possiamo abbassare le mani, vogliamo pregare. Vogliamo pregare insieme con potenza che Dio possa guarire e possa scrivere una storia nuova su queste mani alzate, possa riscattare completamente. Signore, io ti chiedo nel nome tuo potente in questo momento, Dio, io credo nella tua potenza, io credo nel tuo spirito, io credo che tu sia l'autorità in questo luogo, sulle nostre vite, e dichiaro con potenza, Signore, per tutte queste mani alzate, Signore. Signore, che tu possa riscattare, che tu possa guarire ogni ferita del cuore, Signore. Che tu possa dare nuova speranza, Signore. Che tu possa scrivere nuove pagine, nuovi desideri, Signore. Noi cacciamo via la disillusione, noi la cacciamo via, Signore. Perché noi siamo tuoi figli e in te possiamo sperare di più, Signore. Signore, noi spezziamo ogni bugia che vuole legare ciascuna di queste persone. Noi la spezziamo nel nome tuo, Signore. Io prego libertà sulle nostre vite. Io prego libertà sulle nostre vite, che i nostri pensieri stasera possano essere influenzati dalla tua presenza, Signore. Tu sei il Dio che guarisce, tu sei il Dio che riscatta. Signore, nuovi desideri, nuovi sogni su questa chiesa. Nuovi sogni, Signore, nuovi desideri su questa chiesa. Nel tuo nome, Gesù, noi lo preghiamo. Amen. Amen. E io voglio pregare adesso per tutte quelle persone invece che stanno pensando che quel mostro è più grande, che lo stanno vivendo in questo momento. Che in questo momento tu stai vivendo una difficoltà che ti sta impedendo di guardare oltre. Sei in questo momento nel combattimento. Sei in questo momento nel combattimento. Però adesso non voglio chiedere a tutti di chiudere i nostri occhi, perché credo nella preghiera. Credo in una chiesa che è famiglia. Credo nella spalla che ti ha accanto. Credo nel miracolo, credo nello Spirito Santo che può servirsi di ciascuno di noi. Se stai vivendo combattimento perché non stai vedendo l'adempimento di quel desiderio, se quel tuo desiderio è sotto assedio in questo momento, io ti chiedo di alzare la mano. Con coraggio. Se vedi una mano che si alza, avvicinati a quella persona. Vogliamo pregare. Dai, chiesa. Muoviamoci dai nostri posti. Non rimanere attaccato alla tua sedia. Se stai vivendo adesso combattimento perché non stai riuscendo a vedere quel desiderio, i mostri ti stanno spaventando, alza la tua mano. Avviciniamoci alle persone con la mano alzata. Forza. Forza, forza, preghiamo, preghiamo. come è stato per Ezechia, che si è recato alla tua casa e ha pregato il tuo nome. In questo momento noi preghiamo il tuo nome, Signore. Che ogni lettera, ogni paura, ogni minaccia che ci viene gridata contro in questo momento possa cadere davanti alla tua maestosità, davanti alla tua potenza, Cristo Gesù. Noi dichiariamo una chiesa libera da ogni paura. Noi cacciamo fuori da quella porta la paura. Noi non vogliamo avere paura, Signore, di sperare nel di più, di desiderare più in grande, Signore. Noi non vogliamo avere paura, Gesù. Noi crediamo in Te, nella Tua potenza. Noi crediamo in Te, nella Tua salvezza, nella Tua mano che opererà sulle nostre vite grandemente. Io ci credo, mi fido di Te, Gesù. Mi fido di Te, Gesù. Che stasera ogni cuore disilluso possa essere rinfrancato, Signore. Il tuo desiderio è del Signore. Spera in Dio, spera in Dio, spera in Dio, e Dio esaudirà. Spera in Dio e Dio esaudirà per la sua gloria. Nel tuo nome, Gesù, noi lo preghiamo. Amen.